Buonasera fratelli, benvenuti alla decima puntata di Cialtroni nello spazio. Adale non andava bene, qual era il solito inizio di trasmissione, quindi abbiamo cercato di farlo un po' meglio, non c'è riuscito. Comunque benvenuti alla decima puntata di Cialtroni nello spazio, questo era il concetto. E allora, vediamo subito, passiamo alla scaletta della decima puntata di Cialtroni nello spazio. Parleremo di Brasile, perché è successa una cosa abbastanza carina per quanto riguarda il Brasile, e di cui ce ne parlerà appunto Francesco, un consiglio da parte del Massachusetts Institute of Technology a proposito della tecnologia. Il mitico MIT. E poi parleremo di Free Pops, che è un simpatico programmino che ci permette di scaricare la nostra mail tipo dai vari siti tipo Libero o Tino, quelli che impediscono di scaricarli direttamente quando siamo collegati con un altro provider. E poi parleremo un attimo di distribuzione di Linux e cominceremo questo discorso e magari riprenderemo anche nelle prossime puntate. E la musica che ascoltiamo oggi invece ce la presenta Alessandro. Abbandoniamo le atmosfere solari della settimana scorsa con la pizzica, torniamo alle atmosfere nordiche dell'altra settimana. Un gruppo appunto nordico, si chiamano Of Withering Ashes, ovvero di quello che resta delle ceneri fumanti. È un gruppo che fa più o meno nu metal sullo stile dell'Evanescence. No, in realtà rispetto no, qua ridono in trasmissione, no, in realtà il gruppo è molto molto, no, non giudicheremo mai, è molto molto musicali. Tranquillo, e anzi nel loro manifesto insomma dichiarano che vogliono proporsi come un'alternativa al black metal che imperversa comunque in Svezia. E andiamo subito a sentirci una loro canzone, che così vi fate subito un'idea. Naked lips with rust. Iniziamo a parlare di Brasile, di quello che sta succedendo, in particolare il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che era stato eletto qualche anno fa con molte aspettative, soprattutto da parte delle classi più popolari, alle non distruggere tutto quello che c'è in giro, ecco, che era stato appunto eletto con molte aspettative da parte dei suoi elettori del Partito dei Trabalhadores, che poi nel corso degli anni ha dimostrato di non poter mantenere effettivamente tutte le promesse che aveva fatto, però si sta muovendo in alcuni campi in maniera abbastanza interessante. Uno di questi programmi è il programma PC Conectado, ovvero una delle iniziative che cercherà di portare in internet e quindi portare anche educazione e possibilità di apertura al mondo le case, cioè circa 3 milioni di case popolari. Proveranno a vendere dei computer a prezzi popolari con insomma rate mensili di circa 12 euro e proporranno una connessione a internet con 20 ore di connessione al mese a prezzi inferiori ai 2 euro, quindi insomma delle cose abbastanza popolari anche in un paese come il Brasile, gravato da enormi contraddizioni tra ricchissimi e poverissimi. Una delle cose che ci interessa, ed è per questo che Luiz Inácio Lula da Silva è finito nella nostra trasmissione, è che il Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT di Boston, insomma dove hanno più o meno inventato il software, ha consigliato a Lula di, mi guardano male, effettivamente non è esattamente precisissimo quello che ho appena detto, però hanno consigliato a Lula di sostenere l'uso del software libero e di cercare di risparmiare ancora di più rispetto al loro progetto, al progetto brasiliano, utilizzando del software libero. La scelta del sistema operativo è stata rimandata più volte, ci saranno delle decisioni nel corso dei prossimi giorni e al momento sembra che ci sarà una sorta di possibilità tra scegliere Windows e Linux o comunque software libero in generale. Però sono interessanti le considerazioni che vengono fatte dal MIT quando ha scritto appunto una lettera a Lula per consigliare questa cosa. In particolare il MIT scrive: l'open source serve non soltanto come esempio per la programmazione di idee e implementazioni, ma anche per far crescere la comunità di sviluppo in quanto strumento sociale accessibile per l'apprendimento e la pratica. Insomma, se il codice sorgente è proprietario, finisce con il rubare alla popolazione un modo per imparare e per lavorare. Quindi insomma il consiglio del MIT non è solo una questione economica, ma è proprio una questione di prospettiva verso la possibilità di insegnare alla popolazione a utilizzare il software in maniera veramente approfondita, e quindi la possibilità di poterlo studiare, quindi in poter a un basso costo imparare anche dei mestieri, e quindi anche di poter contribuire allo sviluppo di quello che sarà poi la digitalizzazione e la insomma l'informatizzazione del Brasile. Ma non è solo il Brasile che si sta muovendo nel software libero, soprattutto delle pubbliche amministrazioni, vero Marco? Esatto. Vabbè, senza uscire comunque dal Sud America, abbiamo anche l'esempio del Venezuela. Ah, pensavo tu dicessi della Spagna. No, quello è, sì, quello è il punto che mi hai consigliato, però vabbè, non, so che ancora la Spagna non è in Venezuela. La Spagna è negli Stati Uniti e, come tutti sanno, no, scherzo. Allora, seri, in Venezuela il presidente Chavez ha deciso che per tutti i sistemi di controllo dal pompaggio del petrolio ha deciso di passare forzatamente tutto a software libero. In particolare la scelta di Chavez è stata diciamo spinta dal fatto che il software che prima controllava appunto i sistemi di estrazione del petrolio che erano recentemente stati statalizzati era un software chiuso, e in un periodo di abbastanza crisi del governo di Chavez questo software aveva ben deciso di interrompere completamente l'estrazione di petrolio, lasciando nei casini veramente alti il Venezuela, che si sa sopravvive soltanto grazie al fatto che riesce a tirare su del petrolio e a trovare qualcuno qui venderlo. E quindi diciamo la scelta del presidente Chavez è stata mollare completamente il software proprietario, in quanto il software proprietario che avevano ha deciso proprio per caso di bloccarsi appunto in quei giorni. Una dimostrazione di quanto è importante il software e di che cosa vuol dire insomma utilizzare software proprietario o meno in certe applicazioni fondamentali, addirittura fondamentali per l'economia di un intero stato o di un'intera regione. Esatto. Altri esempi abbiamo il Messico, che ha intrapreso già un bel po' di anni una strada di diciamo per spingere il software libero nelle scuole. Adesso all'inizio la scelta del Messico non era stata molto fortunata, perché era mirata solamente a ridurre i costi senza diciamo fornire nulla poi in quanto di corsi o di know-how, di conoscenza, di supporto diciamo al software libero nel suo paese, per cui all'inizio la cosa non era funzionata molto bene, mentre invece poi ha cominciato a funzionare più tardi. E altre cose del Sud America non ne conosco. Cioè, presenta ad esempio il comune di Monaco, che aveva lanciato un progetto per passare completamente a software libero i suoi... Un'analisi di fattibilità. Esatto, di non so quanti migliaia di computer. 90.000, sono circa 55.000 impiegati che utilizzavano Lotus Notes, in particolare un programma chiuso, quindi, e che entro quest'anno si dovrebbe arrivare in un certo senso alla manovra finale, con il passaggio sia del database che della web mail e del mail server e l'infrastruttura di rete. Si parla di una roba tipo 15.000 macchine a Monaco, secondo gli ultimi dati, e la stima che si dice. Non so perché Ale, tu dicevi molti di più. Perché? Beh, citerei Alessandro, che due minuti fa diceva, microfoni spenti, faccio un sacco di minchiate di sui gruppi quando parlo di musica. Tipo la canzone che stavate sentendo è di un gruppo svedese, non norvegese, però. Il contrario, va bene. Allora, comunque, per completare la carrellata, maledetti, in Spagna è stato iniziato un progetto di aggiornamento all'infrastruttura dei servizi sanitari. In sostanza si tratta di fornire un servizio di database, quindi di tutta una serie di informazioni mediche e quant'altro, per circa 14.000 medici spagnoli. Tutta la piattaforma seguita dalla consulenza di IBM si basa su piattaforme Linux, in particolare la SUSE Enterprise Server 8, vabbè, quello un po' che ci interessa. Comunque si tratta di tutti quel genere di servizi che ad esempio in Italia i medici pagano delle aziende private che forniscono più o meno dei software contenenti database dei vari farmaci, oppure gestione dei pazienti, tutte cose che normalmente i medici pagano e per esperienza di scarsa qualità. E quindi andiamo a sentire la seconda canzone di questo gruppo norvegese, mi sono sbagliato. Comunque la canzone si chiama Solitude, è quella che dà il titolo al demo che stanno mettendo insieme. Insomma, il gruppo è relativamente recente, l'abbiamo trovato sempre attraverso il motore Anyula, musicanyula.org, ma questo vabbè, già lo conoscete. Comunque, Solitude. Passiamo al prossimo argomento di questo pomeriggio. Passiamo a parlare di un programma che si chiama Free Pops e che si trova sull'indirizzo freepops.sf.net. Oltre al nome, adesso vi spiegheremo anche a cosa serve. Un bel giorno parleremo anche di FS, prima o poi, visto che ci continuiamo a citare progetti SF, che provengono da FS, del... FS sulle SF. Ferrovie dello Stato. Tu hai detto FS. Oh, è inutile, ti freghiamo sempre, Ale. Sono snervanti. Vabbè, qua si è bloccata in questo momento preciso la pagina che volevo, insomma, andare a sbirciare. Comunque l'indirizzo ve l'ho detto, freepops.sf.net. E andiamo a parlare di Free Pops, che è appunto un programma che è nato in particolare in risposta ad un'esigenza specifica, ovvero circa un anno e mezzo fa Libero ha deciso che non si poteva più scaricare la posta appunto di chi aveva l'indirizzo di posta su Libero con un programma di gestione della posta come potrebbe essere Thunderbird o il forse più noto Outlook, anche se ancora per poco, e in particolare questa limitazione impediva di scaricare la posta sul proprio computer e si poteva consultare soltanto su webmail per coloro che non si collegavano con una linea di libro. Quindi per esempio chi avesse aperto una DSL non con libro dopo aver avuto per anni magari la connessione con libro si è ritrovato senza la possibilità di poter scaricare la posta sul suo computer. Diciamo lo scopo è, da parte dell'azienda è quello di attirare la gente a utilizzare le proprie mail. Sì, più che altro un tentativo disperato di mantenere sulla propria email. Che peraltro in economia ha un nome ben noto, questa tecnica. Qual è questo nome? Qual è questo nome, Alessandro? E appunto questo programmino FreePops, invece, Alessandro, come funziona? Funziona più o meno come funzionano gli antivirus che fanno da filtri di posta. Ovvero non fanno altro che inserire un livello intermedio tra il vostro programma di posta e la pagina web o il webmail che andate a vedere. Non fa altro che tradurre tutte le richieste che il Outlook o Thunderbird fanno e le redirige poi al webmail. Quindi è come se voi fisicamente muoveste il mouse e andaste a cliccare sopra le pagine inserendo la password, l'utente, posta in arrivo, aggiorno e tutte quelle cose lì. Quindi per configurarlo è abbastanza facile, cioè ad esempio io che ho la mail rutto@libero.it al di là del cattivo gusto della mail. La configurazione è abbastanza semplice, basta praticamente scaricare il programma e inserire come server della posta localhost sulla porta 2000, quindi chi utilizzasse Thunderbird o Outlook deve andare a modificare il suo account utente, creare come appunto indirizzo di server POP localhost la porta 2000 e poi inserire come nome utente il proprio indirizzo completo di server, quindi per esempio la mia email che è yamzamp@libero.it lo inserisco nel completo su questa nella finestrella, lo inserisco come indirizzo completo e lui già riconosce, visto che non solo su libro funziona ma anche su tin, anche su super eva, su hotmail, addirittura anche su gmail nel periodo in cui gmail ancora non offriva questo servizio di pop server pop. Lui automaticamente riconosce in seconda dell'indirizzo quali sono gli indirizzi da cui andare a scaricare e permette quindi di poter scaricare la propria posta sul computer. Ci sono comunque anche altri usi, ne elenchiamo un paio giusto velocemente, ad esempio se siete dietro un firewall che chiude la porta 110 lo potete utilizzare per utilizzarlo per scaricare da qualsiasi altro indirizzo con un paio di accorgimenti. Oppure potete utilizzarlo anche per utilizzare la vostra casella di posta elettronica per scaricare le news di qualche sito attraverso il protocollo RSS, quello insomma che stavamo dando un'occhiata prima. Molti siti adesso stanno dando la possibilità di avere direttamente sul proprio computer le notizie principali del sito senza andare effettivamente poi a vederle, magari di questo ne parleremo in una prossima puntata. E poi tante altre cosine che però sono effettivamente dedicate probabilmente ai più tecnici, per esempio aprirsi un server POP facilmente sul proprio computer, però non è esattamente la cosa più utile e diffusa del mondo. Forse l'abbiamo già detto, sono stato un po' distratto, comunque segnaliamolo che questo è un progetto italiano e quindi una volta che noi facciamo qualcosa almeno diciamolo, dai. Va bene, adesso andiamo a cercare anche i nomi degli autori del progetto, visto che siamo così felici del fatto che sia italiano. Gli sviluppatori sono Alessio Caprari, Nicola Cocchiaro, Enrico Tassi e Simone Vellei, più o meno sono tutti di Bologna. Thank you. andiamo adesso ad affrontare l'ultimo argomento di questo pomeriggio, ovvero le distribuzioni Linux. Argomentino finale, pochi minuti. Allora, riprendiamo un attimino il discorso. In realtà cerchiamo di presentare quelle che per noi oggi come oggi possono essere considerate le distro consigliabili. Una distribuzione, per essere molto molto sintetici, è una raccolta di software che vi permettono di installare Linux sulla vostra macchina in maniera decisamente facilitata rispetto al partire da zero e a raccogliere il software che vi interessa, compilarlo e quant'altro, che sono tutte cose al di là delle possibilità che hanno gli utenti normali. Invece le distribuzioni sono piuttosto facili, vanno generalmente scaricate da internet oppure si trovano facilmente nelle riviste, come abbiamo già detto a suo tempo parlando di Nopix e di altre. In particolar modo oggi vediamo di presentarvi due distribuzioni, tre, anche se Marco vorrebbe presentarne solo due. Partiamo subito. Ho capito qual è la terza. Esatto. Sì, perché c'è una lotta interna. Faremo anche una guerra di distribuzioni prima o poi. No, in realtà io sono contro questa lotta. Comunque, partiamo subito da quella che potrebbe interessare la maggior parte degli utenti, ovvero la distribuzione che oggi potrebbe essere considerata più facile da utilizzare e anche che ha tenuto una certa politica, diciamo, di pulita nella gestione dei propri utenti, dei propri aggiornamenti. Allora, in particolar modo per gli utenti, diciamo, di casa, consiglieremo la Ubuntu, che è una distribuzione relativamente giovane, basata su più o meno la stessa struttura di Debian, invece, che è una distribuzione estremamente solida, storica ormai, di Linux, particolarmente orientata ai server. Esatto, che sarà il secondo nostro consiglio, diciamo, per gli amministratori. Molti di voi forse si saranno chiesti perché non abbiamo consigliato una delle classiche distribuzioni che generalmente si vedono sui desktop. Molti forse è una parola grossa, in effetti. Beh, diciamo che chi ha sentito parlare di Linux e ha già avuto un rapporto con questo sistema operativo forse conosce di più distribuzioni come Red Hat, Mandrake, SUSE. Allora, diciamo subito che tutte queste distribuzioni hanno durante la loro vita commesso degli errori oppure tenuto dei rapporti poco felici con i loro utenti, a partire proprio da Red Hat, che insomma ormai ha costretto i suoi utenti non paganti allo stato di beta tester perenne, per cui li costringe a cambiare la distribuzione una volta all'anno, altrimenti pena non avere più aggiornamenti di sicurezza o quant'altro. Mandrake, partiamo da quelle che consigliamo. Che invece consigliamo? Allora, Ubuntu è una distribuzione recente, abbiamo detto. Allora, innanzitutto diciamo che le distribuzioni si assomigliano un po' tutte nei pacchetti contenuti e nei metodi di installazione, nel senso che bene o male hanno tutte una interfaccia grafica, permettono di installare KDE, si parla sempre dell'utilizzo come PC desktop, quindi per scrivere, per le mail, per l'utilizzo web, di tutti i giorni, insomma. Esatto, quindi non parliamo di utilizzi più complessi. Ubuntu si differenziano invece per la gestione dei pacchetti, ovvero per come organizzano tutto il software che è contenuto nella distribuzione. Per esempio Mandrake e Red Hat si basano su RPM, che ormai è un sistema decisamente superato, è il più vecchio e direi che oggi come oggi ha segnato un po' il passo. Invece Debian e Ubuntu si basano su apt-get, che è un ottimo gestore, molto leggero e estremamente solido, che premia la pulizia e l'ordine del software. Diciamo che per un utilizzo, diciamo, desktop, i pacchetti disponibili su Debian come stabili sono un po' insufficienti, mentre Ubuntu, appunto per questo consigliata per il desktop, è un po' più aperta, diciamo, alle cose, al software più, un pochino più sperimentale, per cui ad esempio troverete magari driver che sotto Debian sono considerati beta e sono disponibili solo se abilitate certe cose. Ha un ottimo supporto hardware, quindi non paragonabile a quello di Gentoo, però insomma molto molto vicino. E non so, volete sapere altro di Ubuntu? Vabbè, Ubuntu c'ha una caratteristica carina che è anche decisamente facile da installare, ha un, magari è una scelta un po' discutibile, però cioè forse è discutibile per un po' i puristi del di Linux, però con tre o quattro colpi di invio si installa in una distribuzione che ha già, da un solo CD, che ha già veramente molto software sopra, un desktop completo e un sacco di altre cose, e diciamo si installa veramente facilmente e funzionano da subito tipo periferiche esterne come le chiavette USB, le macchine fotografiche digitali e altre cose, e quindi è abbastanza immediato comunque l'utilizzo di Ubuntu. E facciamo parlare un pochino Marco di Debian, visto che è lui il fanatico, quindi faremo solo un accenno in maniera tale da dare dei consigli a, se ci fossero tra di voi degli amministratori che ascoltano questa trasmissione. Vabbè, qua andiamo un attimino più nel tecnico. Vabbè, Debian ha una caratteristica positiva e una negativa che sono praticamente nella stessa, cioè le stesse caratteristiche sono da vedere sia da un punto positivo che negativo. Debian è una distribuzione molto abbastanza conservativa, per cui diciamo non prima di inserire delle nuove cose nella distribuzione stabile ci pensa veramente un sacco di mesi, e questo può essere positivo, ma diciamo potrebbe essere anche negativo per un, appunto, per un utilizzo desktop. Quindi diciamo la Debian è però comunque un prodotto molto solido per quanto riguarda le installazioni di Linux appunto come server, e quindi anche come client comunque non se la cava male. Una distribuzione che ci siamo dimenticati di citare, boh, io la cito soltanto per una questione storica, è la vecchia e vetusta Slackware, che ancora oggi c'è ancora, e più che altro la citiamo ad onore di quel pazzo che la mantiene praticamente da solo. No, beh, non è proprio da solo, ha qualche amico, insomma, ormai. Che però comunque si è ricavata un po' una sua nicchia di mercato, e cioè di mercato una nicchia di utenti, e tra cui alcuni del circolo da sempre adorano questa distribuzione. Oh, i siti di internet di riferimento sono www.ubuntulinux.org e www.debian.org, che tra l'altro quest'ultimo è anche in italiano. E un ultimo accenno invece a un altro genere di distribuzione un po' diverso, che è la Gentoo. Dunque, Gentoo e Ubuntu e Debian sono tra le distribuzioni che hanno il maggior numero di pacchetti disponibili, quindi danno una grandissima scelta. Gentoo è una distribuzione che può essere molto interessante per chi decide di ottimizzare in maniera massiccia la propria macchina, quindi vuole ottenere delle prestazioni maggiori anche utilizzandola solo come desktop. Permette di personalizzare notevolmente il software e soprattutto non ha un sistema di gestione dei pacchetti già compilati come appunto tutte le altre distribuzioni tranne la Slackware. Questo permette in pratica di avere tutte le ultime versioni dei vari pacchetti, oppure avere versioni di software che non sono già distribuiti, semplicemente perché scarica i sorgenti e li compila. E insomma, per certi tipi di applicazioni che hanno bisogno appunto di aggiornamenti di software molto recente, parliamo ad esempio di tutto quel software che sotto Linux è ancora abbastanza in sviluppo, come software per l'editing grafico o cose di questo genere, che appunto sulle distribuzioni tradizionali si trova solo in versioni vecchie. Su Gentoo è possibile trovarlo nelle ultimissime versioni, probabilmente anche le più stabili. E a proposito di distribuzioni, vorrei citare il contratto sociale Debian, che è, diciamo, l'impegno che Debian ha sempre avuto in quanto riguarda appunto la gestione della sua distribuzione, ed è appunto che Debian rimarrà sempre al 100% software libero, che quindi non includerà mai software proprietario nella sua distribuzione base, poi che Debian restituirà alla comunità del software libero, ovvero sia che tutte le cose che vengono prodotte dagli sviluppatori Debian vengono comunque fatte in software libero. Debian non nasconderà mai i problemi, e quindi se ci sono dei problemi di sicurezza, qualsiasi cosa, non verranno mai nascosti, anzi verranno sempre rilasciati anche dei report dettagliati, come è successo tempo fa appunto con un problema su alcuni server. E un altro punto del contratto sociale è che la priorità di Debian sono gli utenti, e quindi quando Debian deve fare delle scelte sceglie appunto in base a quello che vogliono, cioè le scelte che sono favorevoli ai propri utenti. Beh, ad esempio quasi tutte le grandi distribuzioni, Mandrake o Red Hat eccetera, hanno fallito in questo obiettivo, in questi obiettivi, insomma, hanno dimostrato di non avere gli utenti come obiettivo principale, bensì alla fine anche il business ha avuto la precedenza. E siamo giunti alla fine anche di questa puntata, vi siete beccati anche il pippone finale. E un saluto da Alessandro. Zampo, vuoi salutare? Sì, un saluto anche da Francesco. Questa è la fine della 10ª puntata. Io vi ricorderei, un saluto da Marco. Vi ricorderei solo il sito che la settimana scorsa ci siamo dimenticati di ricordare, www.circolab.net. Vedi che ha sbagliato anche lui, www.circolab.net. Sulla destra trovate il link, c'è il trone nello spazio e poi c'è tutta la pagina con le puntate e con tutti i link di tutte le cose che diciamo, che faccio io perché gli altri due non lo fanno. Un giorno sarà anche disponibile avere tutte le vecchie puntate di Cialtroni nello spazio. Ci stiamo veramente organizzando. E se sul sito ci sono i link sbagliati, è colpa di Alessandro. Ciao.